Sezione 2 di Il Decameron. Parte 1. Giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Letto da Emanuela. Il Decameron. Parte 1. Giornata prima di Giovanni Boccaccio. Introduzione, parte prima. Comincia la prima giornata del Decameron, nella quale, dopo la dimostrazione fatta dall'autore, per che cagione avvenisse di doversi quelle persone che appresso si mostrano ragunare a ragionare insieme. Sotto il reggimento di Pampinea si ragiona di quello che più aggrada a ciascuno. Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte pietose siate, tante conosco che la presente opera al vostro giudicio avrà grave e noioso principio, sì come è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno che quella vide o altramenti conobbe dannosa e lagrimevole molto, la quale essa porta nella sua fronte. Ma non voglio perciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra sospiri e tra le lagrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a camminanti una montagna aspra ed erta, appresso la quale un bellissimo piano e dilettevole sia riposto, il quale tanto più viene loro piacevole, quanto maggiore è stata del salire e dello scendere la gravezza. E sì, come l'astremità dell'allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravveniente letizia sono terminate. E questa brieve noia, dico brieve, in quanto in poche lettere si contiene, seguirà prestamente la dolcezza ed il piacere il quale io vo davanti promesso e che forse da così fatto inizio non sarebbe, se non si dicesse, aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io desidero, che per così aspro sentiero come fia questo, io l'avrei volentier fatto. Ma perciò che qual fosse la cagione perché le cose che appresso si leggeranno avvenissono, non si poteva senza questa rammemorazion dimostrare, quasi da necessità costretto a scriverle mi conduco. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando nell'egregia città di Firenze, oltre ad ogni altra italica nobilissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale, o per operazione dei corpi superiori, o per le nostre inique opere, da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità di viventi avendo private, senza restare d'un luogo in uno o altro continuandosi, in verso l'occidente miserabilmente s'era ampliata. Ed in quella, non valendo alcun senno né umano provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da ufficiali sopra ciò ordinati e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazione della sanità, né ancora umili supplicazioni, non una volta ma molte, ed in processioni ordinate ed in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, ed in miracolosa maniera a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva sangue dal naso era manifesto segno di inevitabile morte, ma nascevano nel cominciamento d'essa a maschi ed alle femmine, parimente, o nell'anguinaia, o sotto le ditella certe infiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, ed altre come uno uovo, ed alcuna più ed alcuna meno, le quali li volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti predette del corpo, infra breve spazio di tempo, cominciò il già detto gavocciolo mortifero, indifferentemente in ogni parte di quello, a nascere ed a venire, ed appresso questo si cominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce ed in ciascun'altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade ed a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato ed ancora era certissimo indizio di futura morte, e così erano queste a ciascuno a cui venivano. A cura delle quali infermità né consiglio di medico né vertù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto. Anzi, o che la natura del malore non patisse, o che l'ignoranza dei medicanti, dei quali, oltre al numero degli scienziati, così di femmine come d'uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta mai, era il numero divenuto grandissimo, non conoscesse da che si muovesse e per conseguente debito argomento non vi prendesse. Non solamente pochi ne guarivano, anzi, quasi tutti, infra il terzo giorno dall'apparizione dei sopradetti segni, chi piuttosto e chi meno, e di più senza alcuna febbre o altro accidente, morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza, perciò che essa dagli infermi di quella, per lo comunicare insieme, s'avventava a sani, non altrimenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte, quando molto vi sono avvicinate, e più avanti ancora ebbe di male, che non solamente il parlare e l'usare con gli infermi dava a sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni e qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata, pareva seco quella cotale l'infermità nel toccator trasportare. Maravigliosa cosa è ad udire quello che io debbo dire. Il che, se dagli occhi di molti e da miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, nonché di scriverlo, quantunque da fede degna persona udito l'avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza narrata nell'appiccarsi da uno ad altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell'uomo infermo stato o morto di tale infermità tocca da un altro animale fuori dalla spezie dell'uomo, non solamente dell'infermità il contaminasse, ma quello in fra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco davanti è detto, presero tra l'altre volte un dì così fatta esperienza che, essendo gli stracci d'un povero uomo da tale infermità morto, gittati nella via pubblica ed avvenendosi ad essi due porci, e quelli, secondo il lor costume, prima molto col grifo e poi codenti, presigli e scossiglisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avesser preso, ammenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra, dalle quali cose e da assai altra queste semiglianti o maggiori nacquero diverse paure ed immaginazioni in quelli che rimanevano vivi. E tutti, quasi ad un fine, tiravano assai crudele. Ciò era di schifare e di fuggire gli infermi e le lor cose, e così facendo si credeva ciascuno a sé medesimo salute acquistare. Ed erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente ed il guardarsi da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere, e fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, ed in quelle case, ricogliendosi e racchiudendosi, dove niuno infermo fosse, e da viver meglio, delicatissimi cibi ed ottimi vini, temperatissimamente usando ed ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare ad alcuno o volere di fuori, di morte o di infermi alcuna novella sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai ed il godere e l'andar cantando attorno e sollazzando ed il soddisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male e così come il dicevano il mettevano in opera al lor potere il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quell'altra andando bevendo senza modo e senza misura e molto più ciò per l'altrui case facendo solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado o in piacere e ciò potevan far di leggeri perciò che ciascun quasi non più viver dovesse aveva sì come sé le sue cose messe in abbandono di che le più delle case erano divenute comuni e così l'usava lo straniere pure che ad esse s'avvenisse come l'avrebbe il proprio signore usate e con tutto questo proponimento bestiale sempre gli infermi fuggivano a lor potere ed in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi così divine come umane quasi caduta e dissoluta tutta per i ministri ed esecutori di quelle li quali sì come gli altri uomini erano tutti o morti o infermi o sì di famiglie rimasi estremi che ufficio alcuno non potean fare per la qual cosa era ciascun licito quanto a grado gli era da adoperare molti altri servavano tra questi due di sopra detti una mezzana via non istringendosi nelle vivande quanti primi né nel bere e nell'altra dissoluzione allargandosi quanto i secondi ma a sufficienza, secondo gli appetiti, le cose usavano e senza rinchiudersi andavano attorno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di spezierie, quelle a naso ponendosi spesso, estimando essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare. Con ciò fosse cosa che l'aere tutto paresse dal puzzo de morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro, dicendo niuna altra medicina esser contro le pestilenze migliore né così buona come il fuggir loro davanti. E da questo argomento mossi, non curando d'alcuna cosa se non di sé, assai ed uomini e donne abbandonarono la propria città, le proprie case, i lor luoghi ed i lor parenti e le lor cose e cercarono altrui o almeno il lor contado quasi l'ira di Dio a punire l'iniquità degli uomini con quella pestilenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, commossa intendesse o quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta. E come che questi così variamente opinanti non morissero tutti, non perciò tutti campavano, anzi, infermandone di ciascuna molti ed in ogni luogo, avendo essi stessi, quando sani erano, esempio dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto, languieno. E lasciamo stare che l'un cittadino l'altro schifasse e quasi niun vicino avesse dell'altro cura, e di parenti insieme, rade volte o non mai, si visitassero e di lontano, Era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava ed il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito e che maggior cosa è quasi non credibile li padri e le madri i figliuoli quasi loro non fossero di visitare di servire schifavano per la qualcosa a coloro dei quali era la moltitudine inestimabile e maschi e femmine che infermavano niuno altro sussidio rimase che o la carità degli amici e di questi fur pochi o l'avarizia dei serventi li quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servieno quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti e quegli cotanti erano uomini o femmine di grosso ingegno e di più di tali servigi non usati li quali quasi di niuna altra cosa servieno che di porgere alcune cose dagli infermi addomandate o di riguardare quando morieno e servendo in tal servigio se molte volte col guadagno perdeano e da questo essere abbandonati gli infermi da vicini da parenti e dagli amici ed avere scarsità di serventi discorso uno uso quasi davanti mai non udito che niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse, infermando, non curava d'avere a suo servigi uomo, qual che egli si fosse, o giovane o altro, e da lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire non altramenti che ad una femmina avrebbe fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse, il che, in quelle che ne guarirono, fu forse di minore onestà, nel tempo che succedette cagione ed oltre a questo ne seguì la morte di molti che per avventura se stati fossero aiutati campati sarieno di che tra per lo difetto degli opportuni servigi li quali gli infermi aver non poteano e per la forza della pestilenza era tanta nella città la moltitudine di quelli che di dì e di notte morieno che uno stupore era ad udir dire non che a riguardarlo perché quasi di necessità come contrarie a primi costumi dei cittadini nacquero tra coloro li quali rimanean vivi era usanza sì come ancora oggi veggiamo usare che le donne parenti e vicine nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piagnevano e d'altra parte dinanzi alla casa del morto co suoi prossimi si ragunavano i suoi vicini ed altri cittadini assai e secondo la qualità del morto vi veniva il chericato ed egli sopra gli omeri del suo pari con funeral pompa di cera e di canti alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era portato le quali cose poiché a montar cominciò la ferocità della pestilenza o in tutto o in maggior parte quasi cessarono ed altre nuove in lor luogo ne sopravvennero perciò che non solamente senza aver molte donne da torno morivan le genti ma assai n'eran di quelli che in questa vita senza testimonio trapassavano e pochissimi erano coloro a quali i pietosi pianti e l'amare lagrime dei suoi congiunti fossero concedute anzi in luogo di quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar compagnevole la quale usanza le donne in gran parte posposta la donnesca pietà per salute di loro avevano ottimamente appresa. Fine della sezione 2.